In realtà anche noi attendavamo per quest'anno una crescita del 18%, che è la stessa crescita che avevamo già registrato l'anno scorso, per cui a conferma di un trend veramente positivo. E noi stessi invece abbiamo registrato una crescita del 25%, in quanto noi chiuderemo quest'anno a 205 milioni di fatturato, per cui in effetti è un mercato che sta crescendo e noi approfittiamo di questo trend positivo essendo i leader a livello mondiale. Anche le vostre performance finanziarie, il titolo Landi Renzo vola. A fine settembre la performance del nostro titolo, tenendo come perimetro il 2008, quindi dal 1° gennaio, era del 117% in positivo. Poi evidentemente la turbolenza finanziaria ha in qualche modo condizionato anche l'andamento del nostro titolo, però in una situazione in cui abbiamo avuto il mantenimento dei differenziali rispetto al MIPTEL, l'indice diciamo, borsistico medio milanese, noi su 290 titoli quotati circa siamo il secondo best performer e oggi ci troviamo ad avere su MIPTEL che è calato rispetto al 1° gennaio di oltre il 40%, un dato del più 48%, per cui in realtà il differenziale è esattamente rimasto quello che era già qualche settimana fa. Secondo voi la grande spinta è quella dei minimi consumi, del grande risparmio, o c'è anche una maggiore cultura di tutela dell'ambiente? Beh, a livello mondiale si sta sicuramente facendo strada la cultura dell'ambiente, GPL e metano emettono minori quantità di CO2 in atmosfera, nella misura rispettivamente del 13 e del 23% in meno. Certamente in periodi di crisi economica il driver del risparmio continua a essere molto forte. Ci sono casi nel mondo in cui i governi stanno spingendo moltissimo per ragioni ambientali la scelta a favore di GPL e di metano. In Italia questo esiste, ci sono gli ecoincentivi che quest'anno sulle trasformazioni saranno confermati, anzi raddoppiati come fondo e continueranno a esserci invece gli incentivi per l'acquisto di auto di primo equipaggiamento, quindi dentro le case auto, che tra l'altro noi forniamo la maggior parte di queste, incentivi molto importanti, per cui in effetti tutto concorre a far sì che questa domanda di ambiente da una parte e di risparmio dall'altra venga soddisfatta. C'è tra l'altro una ricerca di mercato internazionale da parte di una società che si chiama Frost & Sullivan, una società internazionale, che determina come a livello mondiale nel 2006 i sistemi a gas venduti nel mondo, sia di primo equipaggiamento che alle case, che, scusate, le trasformazioni, erano 2 milioni e 900 mila. Questa ricerca di mercato stabilisce che nel 2012 i sistemi venduti nel mondo saranno 7 milioni e 900 mila, quindi un incremento davvero fortissimo, incredibile, e di cui Landi Renzo ovviamente spera di avvantaggiarsi, vista la propria quota di mercato che oggi è del 35% su scala mondiale. Come mai è un fenomeno soprattutto polacco, turco e italiano, quello del GPL? Beh, nel mondo in effetti sono state fatte scelte differenti per varie ragioni. Noi abbiamo l'area turca e l'area dell'est europeo che in effetti hanno puntato molto sul GPL, mentre abbiamo un'area sudamericana e un'area asiatica che hanno puntato di più sul metano. L'Italia è un po' al di fuori di questo contesto, nel senso che storicamente è sempre stato un paese sia di GPL che di metano come scelta. Il maggior numero di auto circolanti a GPL è determinato soprattutto dalle infrastrutture. In Italia ci sono circa 2.400 stazioni di rifornimento GPL, ce ne sono 650 a metano. In realtà esiste una grande domanda di auto metano, Fiat stessa ha fatto una scelta in questo senso, che rimane inevasa proprio perché in alcune regioni italiane le stazioni di rifornimento a metano non sono sufficientemente capillari. Però di fatto l'Italia è un paese che ha scelto entrambi i carburanti. Chiudiamo con la ricerca e lo sviluppo, nascerà un centro importante, le chiedo dove e a che cosa servirà. Presso la nostra sede, il nostro headquarter di Reggio Emilia, investiremo circa 12 milioni di euro per questo centro di ricerca e sviluppo. Ovviamente noi guardiamo già al futuro, quindi è necessario investire in questo senso. D'altra parte fa parte della cultura aziendale perché noi da sempre abbiamo all'incirca un 20% degli addetti impegnati in ricerca e sviluppo. Stiamo studiando soluzioni in chiave idrogeno, in particolare nell'applicazione sulle celle a combustibile, e stiamo studiando soluzioni anche sull'idrometano, che probabilmente sarà la soluzione ponte, quindi un metano miscelato con l'idrogeno in grado di avere delle emissioni nocive veramente addirittura dimezzate rispetto allo stesso metano. Per cui ci muoviamo anzitempo per quelle che sono le sfide del futuro. L'arrivo dell'elettrico spaventa voi installatori e produttori di sistemi GPL metano o no? Non in particolare, il futuro non sarà fatto di una sola soluzione, il futuro sarà fatto di varie soluzioni. Indubbiamente l'elettrico avrà un ruolo fondamentale in questo. Quando parlo di auto idrogeno, però in realtà mi riferisco all'elettrico, perché l'elettrico potrà anzi essere sicuramente applicato come elettrico puro, ma anche avere un elettrico dove l'idrogeno va ad alimentare la batteria stessa. Quindi in realtà l'auto idrogeno è un'auto elettrica che utilizza l'idrogeno per alimentare la batteria.